Il punto di Stefano Folli. La quiete prima della tempesta, si potrebbe dire. Si attende la sentenza della Cassazione e l'attesa si protrae, ma non c'è niente da fare se non aspettare, con qualche amara considerazione sul decadimento della politica italiana, costretta ad attendere un giudizio della magistratura per poter immaginare il proprio futuro. In ogni caso, ormai tutto è stato detto. Le opposte tifoserie hanno preso posto sugli spalti e sono pronte per lo spettacolo. L'unica speranza è che poi le reazioni siano quelle di un paese maturo, preoccupato di non compromettere ciò che esiste di buono nel governo e nelle istituzioni. E stasera probabilmente sapremo.